dagli spiriti dopo la mia morte. Ad alta voce. Piero Baldini legge Grandi speranze di Charles Dickens. Se quella vecchia casa dall'aspetto dignitoso vicino al parco di Richmond dovrà mai essere visitata dagli spiriti dopo la mia morte, sarà certamente il mio spirito a frequentarla. Oh, per quante notti e giorni il mio spirito inquieto errò per quella casa dove viveva Estella. Il mio corpo poteva essere dovunque, ma il mio spirito si aggirava continuamente attorno a quella casa. La signora che ospitava Estella, la signora Bradley, era una vedova con una figlia di parecchi anni maggiore di Estella. La madre sembrava giovane e la figlia vecchia. Il colorito della madre era roseo, quello della figlia giallo. La madre era piuttosto frivola. La figlia si era data alla religione. Godevano, come si dice comunemente, di una buona posizione. Frequentavano e ricevevano una quantità di persone. Fra loro ed Estella vi era ben poca affinità di gusti, seppure venera, ma era stata raggiunta un'intesa basata sul fatto che esse erano necessarie a lei e lei a loro. La signora Bradley era stata amica della signorina Havisham prima che questa si desse a una vita di clausura. Tanto in casa della signora Bradley quanto fuori di essa, io soffersi le torture di ogni genere e grado che Estella poteva infliggermi. La natura dei miei rapporti con lei, che mi poneva su un piano di intimità ma non di favore, contribuiva alla mia disperazione. Ella si serviva di me per tormentare altri adoratori e approfittava proprio della familiarità che v'era fra noi due per accogliere con costante disprezzo la mia devozione. Estella aveva un numero infinito di ammiratori. Senza dubbio la mia gelosia tramutava in un ammiratore chiunque le si avvicinasse, ma anche senza di ciò ve ne erano più che a sufficienza. La vedevo spesso a Richmond. Ne sentivo parlare spesso in città. Spesso portavo lei e le Bradley in barca sul fiume. Vi furono merende in campagna, feste, serate all'opera, concerti, ricevimenti, ogni sorta di divertimenti in cui le ero compagno. E null'altro mi portarono che sofferenza. Non ebbi mai un'ora di felicità in sua compagnia. Eppure la mia mente non faceva giorno e notte che ricamare sulla felicità di averla con me per tutta la vita. In tutto questo periodo dei nostri rapporti, che durò, come vedremo fra poco, per quello che allora a me parve un tempo ben lungo, ella usava di solito un tono particolare a significare che il nostro legame ci era imposto. Solo in certi momenti di botto cambiava e sembrava avere compassione di me. «Pip! Pip!» disse una sera in uno di questi momenti mentre eravamo seduti in disparte accanto a una finestra che s'andava oscurando nella casa di Richmond. «Non capirai dunque mai i miei avvertimenti». «A che proposito?» «Di stare in guardia da me». «Di non farmi attrarre da te, vuoi dire, Estella?» «Voglio dire... Se non sai quello che voglio dire, sei cieco». Avrei dovuto rispondere che l'amore di solito è cieco, se non me l'avesse impedito, e non era la minore delle mie sofferenze, la sensazione che non fosse generoso di impormi a lei, quando sapevo che ella non poteva fare altro che obbedire alla signorina Havisham. Il mio continuo terrore era appunto che il saperlo costituisse uno svantaggio per me di fronte al suo orgoglio e mi rendesse la causa di una cocente ribellione nel suo petto. Ad ogni modo, dissi, questa volta non mi hai dato nessun avvertimento, perché proprio tu mi hai scritto di venire. È vero? Disse Estella con quel frigio sorriso indifferente che sempre mi agghiacciava. Guardammo per un poco il crepuscolo. Poi ella riprese. La signorina Havisham desidera avermi per un giorno a casa Satis. Vuoi portarmi, cioè puoi riportarmi indietro? La signorina preferirebbe che io non viaggiassi sola e non vuole avere in casa la mia cameriera, perché ombrosa com'è detesta di sentirsi rivolgere la parola da simili persone. Mi puoi accompagnare? Se ti posso accompagnare, Stella. Allora puoi? Dopodomani, per favore. Dovrai pagare tu tutte le spese con il denaro che c'è nella mia borsa. Hai capito bene le condizioni della tua venuta? E dovrò obbedire, dissi. Ecco che cosa mi si diceva prima di queste visite o di altre simili. La signorina Havisham non mi scrisse mai e non vidi mai neppure la sua calligrafia. Andammo in campagna due giorni dopo e la trovammo nella stanza dove l'avevo vista per la prima volta. Inutile aggiungere che nessun cambiamento era avvenuto a casa Satis. La signorina si dimostrò ancor più spaventosamente attaccata a Estella di quanto non fosse stata l'ultima volta che le avevo viste insieme. Uso questo avverbio deliberatamente, poiché vi era qualcosa di veramente spaventoso nella intensità dei suoi sguardi e dei suoi abbracci. Ella stava come sospesa alla bellezza di Estella, alle sue parole, ai suoi gesti. Stava lì mordicchiandosi le dita tremanti e la guardava come se volesse divorare la bella creatura che aveva allevato. Da Estella volgeva gli occhi a me con uno sguardo penetrante che sembrava indagare nel mio cuore e saggiarne le ferite. «Come ti tratta, Pip? Come ti tratta?» continuava a domandarmi con un ardore quasi di strega, persino dinanzi ad Estella. Ma la sera accanto al fuoco guizzante ella apparve più che mai stregata, che tenendo il braccio di Estella sotto il suo e la mano di lei stretta nella propria, riuscì a estorcerle, riferendosi al contenuto delle frequenti lettere di Estella, il nome e la posizione degli uomini che ella aveva fatto innamorare. E mentre indugiava su questo elenco, con l'intensità morbosa di una mente mortalmente ferita, teneva l'altra mano sopra il bastone a gruccia, il mento sulla mano, gli occhi brillanti e vacui fissi su di me. Un vero fantasma. Compresi da ciò, nonostante la pena e l'amaro senso di tenerezza, persino di gradazione che me ne venivano, compresi da ciò che Estella era destinata a compiere le vendette della signorina Havisham sugli uomini e che non sarebbe stata data a me finché per un certo tempo non l'avesse appagata. Compresi da ciò per quale ragione Estella mi era stata assegnata anzitempo, mandandola in giro per il mondo ad affascinare, tormentare, far soffrire. La signorina Havisham aveva la maligna certezza di saperla al sicuro da ogni ammiratore, così che tutti coloro che puntavano su di lei erano destinati a perdere. Compresi da ciò che io pure ero vittima di questa mentalità pervertita, anche se la posta mi era riservata. Compresi da ciò la ragione per la quale ero stato tenuto all'oscuro così a lungo e per la quale il mio tutore si era di recente rifiutato ad ammettere d'essere a conoscenza di un simile progetto. In una parola riconobbi in ciò la signorina Havisham quale la vedevo in quell'istante dinanzi ai miei occhi, quale l'avevo sempre avuta dinanzi agli occhi. Riconobbi in ciò l'ombra di quella dimora buia e malsana in cui la sua esistenza si svolgeva lontano dal sole. Fu in occasione di questa visita che avvenne uno scambio di dure parole fra Estella e la signorina Havisham. Era la prima volta che le vedevo l'una contro l'altra. Eravamo seduti accanto al fuoco, come ho detto, e la signorina Havisham teneva ancora il braccio di Estella sotto il suo e la mano di Estella stretta nella sua, quando a poco Estella cominciò a liberarsi. Già più di una volta ella aveva dato segno di un'orgogliosa impazienza e aveva mostrato di subire quell'affetto così violento, più che accettarlo o ricambiarlo. «Sei stanca di me», disse la signorina Havisham con uno sguardo lampeggiante. Solo un poco stanca di me stessa, rispose Estella liberando il braccio e dirigendosi verso il grande camino, dove si fermò a contemplare il fuoco. Mia verità! Ingrata! Gridò la signorina Havisham, battendo con ira il bastone per terra. Sei stanca di me! Estella la guardò con calma perfetta e di nuovo riportò gli occhi sul fuoco. La sua figura graziosa ed il suo bel volto esprimevano un'indifferenza glaciale di fronte al pazzo furore dell'altra. Sei fatta di legno e di pietra! Esclamò la signorina Havisham. Cuore freddo di gelo! Ebbene? Disse Estella conservando il suo atteggiamento indifferente, appoggiandosi alla caminiera, non muovendo che gli occhi. Mi rimproveri per essere fredda. Proprio tu. Non lo sei? Fu l'impetuosa replica. Lo dovresti sapere tu, disse Estella. Io sono quella che tu mi hai fatto. A te tutto il merito, a te tutto il biasimo. Tu il successo, tu l'insuccesso. Insomma, tutto quello che sono. Sentitela, sentitela! Gridò amaramente la signorina Havisham. Così dura e ingrata! Proprio in questa casa dove fu allevata, dove l'accolsi nel mio seno infelice che sanguinava per le pugnalate che gli erano state inferte, e dove per anni ho profuso la mia tenerezza su di lei. Se non altro non ho firmato io quel patto, obiettò Estella, perché tutt'al più potevo camminare e parlare quando esso fu fatto. Ma che vorresti? Sei stata molto buona con me. Ed io ti devo tutto. Ma che vorresti? Il tuo amore, rispose l'altra. Lo hai? Non l'ho, disse la signorina Havisham. Madre mia adottiva, ribatté Estella senza abbandonare il suo atteggiamento, senza mai alzare la voce, senza mai lasciarsi andare all'ira o alla tenerezza. Madre mia adottiva, ho detto che ti devo tutto. Tutto ciò che io posseggo è completamente tuo. Tutto ciò che tu mi hai dato è in tuo potere di riprendermelo. Oltre a ciò io non ho nulla. E se mi chiedi di darti quello che tu non mi hai mai dato, non si può chiedere l'impossibile alla mia gratitudine e al mio dovere. Vi è forse un altro essere vivente che sappia quanto me gli scopi precisi che ti sei prefissa? Vi è un altro essere vivente che sappia anche solo la metà di quanto so io? Quale memoria implacabile tu abbia? Io, che accanto a questo stesso focolare sono stata seduta su quello sgabello che proprio ora è lì, accanto a te, ad imparare le lezioni che mi davi e a guardarti in viso, quando il tuo viso era strano e mi spaventava. Tutto già dimenticato, gemette la signorina Havisham. Tempi già dimenticati. No, non dimenticati, disse Estella. Non dimenticati, ma serbati gelosamente nella memoria. Quando mai mi hai trovata infedele ai tuoi insegnamenti? Quando mi hai trovata in memore delle tue lezioni? Quando mi hai trovata pronta ad accogliere qui? E si toccò il seno con la mano. Qualcosa che tu ne avessi escluso. Sii giusta con me. Com'è orgogliosa! Com'è orgogliosa! Si lamentò la signorina Havisham, ricacciando indietro con tutte e due le mani la sua grigia chioma. «E chi mi ha insegnato ad esserlo?» replicò Estella. «Chi mi ha lodato quando avevo imparato la lezione?» «Com'è dura, com'è dura!» gemette la signorina Havisham, ripetendo il gesto. «Chi mi ha insegnato ad essere dura?» ritorse Estella. «Chi mi ha lodato quando avevo imparato la lezione?» Estella la guardò un istante con una specie di tranquilla meraviglia, ma senza esserne altrimenti turbata. Poi tornò a fissare il fuoco. «Non riesco a capire», osservò rialzando gli occhi dopo un silenzio, «perché tu debba essere così irragionevole quando vengo a trovarti dopo una separazione. Non ho mai dimenticato i torti che ti sono stati fatti e le loro cause. Non sono mai stata infedele a te e ai tuoi insegnamenti. Non ho mai dimostrato nessuna debolezza di cui io mi possa incolpare. Sarebbe una debolezza ricambiare il mio amore, esclamò la signorina Havisham. Ma sì, sì, lei la chiamerebbe così. Mi par quasi di capire, disse Stella in tono pensieroso dopo un altro momento di calma riflessione, come si possa giungere a questo. Se tu avessi allevato la tua figlia adottiva esclusivamente nella buia reclusione di queste stanze, se tu non le avessi mai fatto sapere che esiste una cosa come la luce del sole, alla quale essa non ha mai visto neanche una volta il tuo viso, se tu avessi fatto questo e poi per uno scopo tuo avessi voluto che lei conoscesse la luce del sole e sapesse tutto al riguardo, saresti stata delusa e adirata. La signorina Havisham, la testa fra le mani, rimase seduta, emettendo dei gemiti fiochi e dondolandosi sulla sedia, ma non rispose nulla. Oppure, continuò Estella, com'è più vicino al vero se tu le avessi insegnato, sin da quando si è schiusa la sua intelligenza, con la massima energia e autorità, che vi era una cosa come la luce del giorno, ma che era stata creata per essere la sua nemica, per distruggerla, e che ella quindi doveva sempre mostrarsi ostile ad essa, che aveva esercitato un'influenza nefasta su di te e l'avrebbe esercitata su di lei se tu avessi fatto questo, e poi per uno scopo tuo avessi voluto che lei considerasse la luce del sole come naturale, ed essa non ci fosse riuscita. Saresti stata delusa e adirata. La signorina Havisham, seduta, ascoltava, o almeno sembrava, poiché non potevo scorgerne il volto, ma ancora non diede risposta. Quindi, concluse Estella, bisogna prendermi come sono stata fatta. Il successo non è mio, l'insuccesso non è mio, ma tutte e due insieme formano il mio io. La signorina Havisham, non so come, si era messa a sedere per terra, tra i pezzi spiegazzati dell'abbigliamento nuziale. Colsi il momento opportuno. Lo avevo cercato sin dall'inizio, per uscirmene, dopo aver scongiurato Estella con un gesto della mano di aver cura di lei. Quando uscii, Estella era sempre in piedi accanto al grande camino, come lo era stata per tutto quel tempo. Le chiome grigie della signorina Havisham erano sciolte e in disordine. Era veramente un spettacolo penoso. Con animo abbattuto camminai per un'ora e più sotto le stelle, nel cortile, intorno alla birreria e nel giardino abbandonato. Alla fine raccolsi il mio coraggio per rientrare e vi trovai Estella che, seduta sulle ginocchia della signorina Havisham, dava alcuni punti ad uno di quei vecchi indumenti sdruciti, di cui in seguito mi sono spesso ricordato al vedere i brandelli scoloriti di vecchie bandiere appese nelle cattedrali. Poi Estella ed io giocammo a carte, come un tempo. Solo che ora ci eravamo perfezionati e facevamo dei giochi francesi. E così la serata passò ed io andai a letto. L'indomani, prima che ce ne andassimo, non si rinnovò il contrasto fra lei ed Estella, né si rinnovò mai in altre simili occasioni. E se ben ricordo, ve ne furono altre quattro. Né i modi della signorina Havisham verso Estella mostrarono alcun cambiamento, se non forse per un certo senso di timore che mi parve di vedere aggiungersi alle loro caratteristiche precedenti. Non mi è possibile di voltare questa pagina della mia vita senza segnarvi il nome di Bentley Drummle, che pure ometterei molto volentieri. Ad un certo ballo sociale a Richmond, i balli sociali erano molto di moda a quell'epoca, in cui Estella aveva eclissato tutte le altre bellezze, Questo stupido Drummond le rimase tanto appiccicato e con tanta passività da parte di lei che decisi di parlarle in proposito. Approfittai del primo momento favorevole e fu mentre Stella aspettava che la signora Bradley la riconducesse a casa ed era seduta in disparte fra alcune piante fiorite, pronta ad andarsene. Le ero accanto perché quasi sempre l'accompagnavo all'andata e al ritorno in simili circostanze. «Sei stanca, Stella?» «Piuttosto, Pip.» «Dovresti esserlo.» «Di piuttosto che non dovrei esserlo perché devo scrivere una lettera a casa Satis prima di coricarmi.» «Per raccontare il trionfo di stasera. Di certo un trionfo molto meschino.» «Che vuoi dire? Non so di che trionfo parli.» «Estella», dissi io, «guarda quel tipo nell'angolo laggiù che ci sta osservando.» «Perché dovrei guardarlo?» replicò Estella con gli occhi invece fissi su di me. «Che cos'ha quel tipo nell'angolo laggiù, per usare le tue parole, perché io lo debba guardare?» «Veramente è proprio questa la domanda che vorrei farti, perché tutta la sera ti ha ronzato attorno.» «Le falene ed ogni sorta di brutte creature», rispose Estella gettandogli un'occhiata, «ronzano intorno ad una candela accesa. La candela può forse impedirlo?» «La candela no», dissi, «ma Estella non può impedirlo.» «Beh», disse mettendosi a ridere dopo un istante, «forse sì, come vuoi tu.» «Estella, ascoltami. Mi rende infelice che tu debba incoraggiare un tipo così disprezzato da tutti come Drummond. Lo sai com'è disprezzato.» «Ebbene?» «Lo sai che è altrettanto volgare dentro quanto fuori, che è un deficiente, un cattivo carattere, meschino, stupido.» «Ebbene?» «Lo sai che non ha altri meriti che la ricchezza e una lista ridicola di stupidi antenati. Via, non lo sai?» «Ebbene?» E la ripeté, ed ogni volta che lo diceva spalancava più grandi i suoi begli occhi. Per superare la difficoltà e passare oltre questa parola, la echeggiai, ripetendola con enfasi. «Ebbene, è proprio questo che mi rende infelice.» Ora, se io avessi potuto pensare che ella prediligeva Drummond allo scopo di far soffrire me, mi sarei sentito più sollevato. Ma con quel suo tono ella mi metteva così completamente fuori gioco da non permettermi di pensare nulla del genere. «Pip», disse Estella guardandosi in giro nella stanza, «non essere sciocco. Chi ti dice che non lo faccia apposta? Non vale la pena di discuterne.» «Sì, invece», dissi io, «perché io non posso tollerare che si dica: quella ragazza spreca le sue grazie e il suo fascino con un semplice tanghero, il più spregevole fra tutti quanti.» «Io posso tollerarlo», disse Estella. «Oh, non essere così orgogliosa, Estella, è così inflessibile.» «Un momento mi chiama orgogliosa e inflessibile», disse Estella allargando le mani, «e un momento prima mi rimproverava di abbassarmi al livello di un tanghero.» «È proprio ciò che fai. Questa sera stessa ti ho visto concedergli degli sguardi e dei sorrisi come non concedi mai a me.» «Vuoi allora?» disse Estella voltandosi bruscamente con uno sguardo fisso e serio, se non adirato, «che io ti inganni e cerchi di sedurti?» «Lo inganni e cerchi di sedurlo, Estella?» «Sì, e molti altri, tutti quanti, eccetto te. Ecco la signora Bradley. Non dirò altro.» Ed ora che ho consacrato questo solo capitolo all'argomento che tanto mi riempiva il cuore e tanto spesso mi faceva soffrire, passo senza più ostacoli all'avvenimento che da ancor più lungo tempo impendeva sul mio capo. L'avvenimento che il destino aveva preso a tessere prima ancora che io sapessi che il mondo conteneva Estella, e dall'epoca in cui la sua mente infantile riceveva i primi insegnamenti sbagliati dalle mani devastatrici della signorina Havisham.